Era un pochino più grande, quindi l'anno delle superiori, del diploma, si sta fino a tardi in biblioteca, insomma. Esco e non trovo la bicicletta. E allora sai, mi dice, caspita, l'hanno rubata proprio adesso. E faccio il giro un po' dei cespugli che c'erano attorno e la trovo avanti, mollata là. Dicevo, vai, è il solito pirla che vuole fare lo scherzo. E invece è successo dell'altro. Stavo raccogliendo la mia bicicletta quando mi sono sentita delle mani prendermi. Altre mani buttarmi a terra. Mi sono alzata dopo un tempo lunghissimo. Mi ricordo solo una frase. Così impari. A far cosa non lo so. Non avevo il fidanzato. Non l'avevo mai avuto. Non avevo fatto male a nessuno. Non so cosa avrei dovuto imparare. Mancavano 3 giorni al mio 18° compleanno. Quando poi ti alzi, torni a casa, sei lacerata dentro e fuori, non ti spieghi. Vado su e mentre andavo su, entro in casa, vado su in camera e in bagno per lavarmi, sento mia mamma, mi ferma mia mamma e mi fa: ti pagano ore di tornare, è buio fuori, sai che fuori a quest'ora stanno solo le... Ok, le mignotte, insomma. Ero disperata, ma davanti alle parole di mamma mi sono detta: ok, e adesso cosa le dico? Se le avessi detto quello che avevo appena vissuto, la sua risposta sarebbe certamente stata: te la sei cercata, torni con la luce del sole e queste cose non accadono. Non avrei detto niente a nessuno. Non potevo parlarne e basta. Dentro di me si era forzata anche di più l'idea di dover essere perfetta, perché non c'era altra possibilità. Avevo avuto la prova che disubbidiendo alle regole era successo qualcosa di brutto. Nel momento in cui disubbidisci alle regole, ti capita qualcosa, no? Tu obbedisci e andrà tutto bene per tutta la tua vita. Come nei film degli anni 50, che le signore si alzano pettinate, la casa è tutta in ordine, e gli elettrodomestici funzionano, prendono il tè con le amiche, i bambini sono bellissimi. E quindi è questo. Tutto in ordine. A 18 anni scelgo che tutto deve essere rispondente alle regole, perché la lezione l'avevo ricevuta. Se tu alle regole non ci stai, qualcosa ti succede. Ho cercato di andare avanti, ma sentivo dentro che stavo mentendo me stessa. Dentro avevo uno squarcio enorme. Quando tu vieni violato in quel modo, lacerato così, non c'è niente da fare. Non si riempie quel vuoto. Non si rimargina quella ferita. Ma cresce con te. Te la porti dietro in ogni momento. Take my hand, stay. And baby, you're just moving on.

succede che poi appunto ti sposi e devi essere una moglie perfetta, la tua casa è perfetta e poi avvengono dei bambini che sono dei bambini perfetti, ai quali tu dai tutta la perfezione, entri nel mondo del lavoro e devi essere sempre perfetta. Io mi alzavo la mattina alle 6 e mi mettevo i bigodini, perché quando dovevo uscire dovevo essere pettinata, perfetta, vestita benissimo, la camicetta di seta, il tacotto, il tailleur giusto, perché dovevo anche rappresentare l'azienda. E la casa doveva essere perfetta quando uscivo, c'erano i letti rifatti, tutto in ordine, tutto perfetto, in modo che chiunque potesse tornare in quel momento sarebbe entrato in una casa perfetta. Pochi giorni fa mi hanno consegnato un premio per il mio lavoro e gli organizzatori hanno chiesto a Roberto, mio marito, di passare loro una serie di mie foto per la cerimonia di premiazione. Lui ha recuperato delle foto mie dall'infanzia ad oggi che poi sono state proiettate. Non so che effetto abbiano prodotto sul pubblico, ma mentre passavano le slide con le foto, io mi sono guardata. Ero sempre sorridente, sempre. Qualsiasi cosa stessi facendo. Ero sempre in procinto di fare qualcosa, avevo bisogno dell'approvazione degli altri. Anche nelle foto mettevo in scena una rappresentazione perfetta della mia vita. Doveva essere tutto organizzato nei minimi dettagli, niente poteva sfuggirmi. La mia non era la perfezione del pedante dei film di Carlo Verdone, piuttosto quella delle donne perfette dei film americani. She was walking in and she looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream been chasing is my own, so I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog, keep on keeping at what you love, you'll find that someday soon enough you will. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog, keep on keeping at what you love, you'll find that someday soon enough you will rise up. Cambiavo lavori su lavori, esigendo sempre il massimo da me stessa. Erano gli anni 90, mi occupavo di tutta quella che era la logistica delle aziende. Entravo, le ribaltavo come dei calzini e organizzavo qualcosa che potesse funzionare ancora meglio di prima. Sono passati 4 anni, sono passati 5 anni, bisogno di stimoli nuovi e quindi andavo a cercare di essere ancora più perfetta, sfidandomi in ruoli che magari non conoscevo, in realtà che non mi erano note, ma delle quali poi entravo e me ne riappropriavo completamente. E quindi significava sempre fare orari pazzeschi, ed era questa una cosa che mi rimproveravano sempre, del fatto che io poi entravo come un caterpillar e facevo quelle cose che fanno i maschi. Io se fossi nata maschio sarei stata forse più felice da un certo punto di vista, però non è possibile. Però mimavo quei tipi di comportamenti, no? Io mi ricordo le telefonate anche di Roberto, di mia suocera: Anna, sarebbero le 8 di sera, vuoi venire a casa? Dico, ah, le 8, ah sì sì, adesso arrivo, per dire. ho lavorato per la grande distribuzione in ambito merceologico, poi per grossisti farmaceutici, poi dalla logistica fino a se stessa mi sono avvicinata al mondo della comunicazione e poi, a cavallo fra i 90 e i 2000, ho lavorato per un'industria metalmeccanica, dove dovevo seguire determinati tipi di progetti legati alla conversione in euro. Stavamo già entrando nel mondo dell'euro. L'azienda produceva tutta una serie di manufatti che esportava in tutti i mercati del mondo, dal Giappone agli Stati Uniti, per cui c'era tutta una serie di dinamiche in vista dell'euro da ricalibrare. Inutile dire che a casa non mi vedevano mai. Infatti mia suocera, quella che ha cresciuto i miei bambini, è stata bravissima. Poi sabato e domenica non c'era per nessuno, io comunque tornavo, li seguivo, li facevo tutto quello che era possibile, in giro a musei, giochi, le attività, sempre, però era diverso, era una serenità comunque diversa. Però doveva essere perfetto anche tutto il resto, casa in ordine, tutto a posto, le tende, le cose, la casa. Anche il divertimento doveva essere finalizzato a qualcosa. Andiamo in questo museo, andiamo a vedere questo, cerchiamo di diventare tutti più intelligenti. Tutto questo è successo dal tempo delle superiori fino più o meno i 35 anni. Per tanto tempo. Tantissimo tempo. Per 20 anni. Per 20 anni. E grazie davvero ad Anna Maria, grazie a Mauro Pescio che raccoglie la nostra storia seriale. Potete riascoltarvela se volete in podcast, potete ascoltarla tutta quanta, potete ascoltarle tutte in realtà, potete ascoltare tutte le storie seriali che abbiamo raccontato da settembre ad oggi, lussuria, accidia, potete ascoltare storie di invidia, potete ascoltare tutte le storie dei sette vizi capitali che vi abbiamo raccontato. Questo è l'ultimo che chiude la serialità legata ai vizi capitali, andrà avanti ancora un paio di settimane e poi continueremo a raccontarvi altre storie. Godetevi il vostro sabato sera, godetevi la domenica, state su con il morale, passerà e sarà ancora più bello. Ci sentiamo lunedì alle 15 per raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!